Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 3 febbraio, buongiorno, bentornati, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio e TV, il nostro consueto appuntamento di mezz'ora, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E sempre insieme a voi ci siamo io, che sono Caterina Bombarda, e la mia collega Antonella Cortese. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Partiamo dalle notizie, che in realtà è una sintesi che vi voglio fare. Siccome sapete, Eduradio collabora ormai da 2 anni con tutte quelle che sono le associazioni che entrano in carcere da una vita, che in particolare sono l'Associazione Poggeschi per il Carcere e l'Associazione di Volontariato AVOC, e quindi è anche l'occasione per noi per raccontarvi quello che facciamo all'interno di queste associazioni. Da poco vi è stato, proprio al Centro Cabral, che è una biblioteca delle lingue orientali qui a Bologna, l'incontro con una volontaria israeliana di nome Michal, che non solo è stata un'occasione per conoscerla, conoscere ciò che viene fatto nelle carceri israeliane, ma anche per conoscere il suo progetto di meditazione con i detenuti. Caterina, è molto interessante, anche per noi, che noi abbiamo Liberation Prison Project che fa la stessa cosa, ma come funzionano questi gruppi di meditazione con i detenuti? Guarda, Michal intanto ha cominciato questi laboratori, questi gruppi di meditazione già 16 anni fa, una vita praticamente, e poi questa modalità è diventata quasi consuetudinaria in molte carceri israeliane, vengono fatti gruppi di meditazione. Prima del Covid ce n'erano 25 di gruppi di meditazione nelle 16 carceri israeliane. Ogni gruppo è guidato settimanalmente da un volontario e da quando c'è il Covid i gruppi continuano, ma in modalità online. Esistono 2 gruppi di meditazione, ci sono gruppi su base volontaria e gruppi chiusi, formati da detenuti che sono, per così dire, obbligati, ma poi dopo vi vanno anche volentieri, a partecipare al progetto come parte anche di riabilitazione. Sono detenuti che appartengono alle categorie di persone con dipendenze, persone colpevoli per violenza domestica o sex offenders. Senti, questo tipo di meditazione è di ispirazione buddista, però è un'attività laica, giusto? Sì, assolutamente laica, anche perché, come potrete immaginare, le carceri israeliane sono anche ricche di persone che hanno culture e fedi completamente diverse, cioè la cultura ebraica, islamica, cristiana, e quindi molte persone associano anche la meditazione al rilassamento, ma non è così. Lo scopo, secondo Michal, è l'opportunità di cambiare la propria mente, i propri sentimenti, conoscere se stessi anche attraverso l'osservazione. Il sogno di questa volontaria che ci ha raccontato la sua esperienza è che tutti i detenuti possano cominciare ogni giornata con una meditazione, così da poter alleviare la loro sofferenza e poter cambiare la propria vita. I volontari hanno prodotto da questa esperienza ormai di 16 anni un libro di meditazione per i detenuti, che è scritto sia in lingua araba che in lingua ebraica, e dopo 3 anni, pensa Antonella, hanno ottenuto il permesso da parte dell'amministrazione penitenziaria di poterlo donare alle persone detenute. Ed è stato un atto molto singolare questo, perché pensate che i detenuti non possono ricevere assolutamente nulla, nemmeno un regalo, né una penna, né un vestito da nessuno. Quindi è stato un gesto molto molto apprezzato. E poi c'è anche un'altra cosa da aggiungere, che è stato scritto in arabo, anche perché tutte le istruzioni, tutte le informazioni sono solo in ebraico generalmente. Ma senti, che cosa ci dice Michal delle carceri israeliane? Sì, lei ha aggiunto qualche informazione su quella che è la realtà nelle carceri israeliane, che è composta da circa 15.000 detenuti su una popolazione di 9 milioni di abitanti, e di questi 15.000, 5.000 sono prigionieri politici, tutti arabi, che sono tenuti completamente separati dalle altre persone, e a loro non è offerto nessun tipo di programma e di riabilitazione. Inoltre, 500 di queste 5.000 persone prigionieri politici sono in carcere senza processo, senza sapere perché sono stati arrestati e senza sapere perché vengono trattenuti lì per anni. Il 45% dei detenuti sono arabi, nonostante nonostante gli arabi costituiscano il 20% della popolazione di Israele, e i programmi di riabilitazione sono tenuti solo in lingua araba, ebraica, come dicevi tu prima, e non in arabo. Inoltre c'è qualche curiosità che mi piacerebbe riportarvi: ci sono le attività scolastiche per la riabilitazione, ma non ci sono supporti da parte del carcere anche per partecipare per esempio all'università, e il numero anche totale delle donne è al momento di 180, quindi un numero molto basso, ma per tutte queste donne ci sono trattamenti psichiatrici perché molte di esse hanno subito abusi. E poi una curiosità importante è il fatto che esiste anche all'interno delle carceri israeliane un progetto radiofonico da 4 anni, una stazione radio completamente gestita da detenuti, che fanno da 3 ai 6 mesi di addestramento prima di cominciare, ma non sono pagati per il lavoro che fanno, come anche gli altri lavori all'interno delle carceri non sono pagati. E la radio, questa ha molto successo, può essere ascoltata in tutte le carceri israeliane, ma non all'esterno, un po' come l'esperienza di The Tank, la radio statunitense che vi ho già raccontato. Quindi possono invitare persone per intervistarle, possono lanciare programmi musicali, ma è solo destinato a loro. E allora mi viene da dedicare una canzone che è proprio tratta da un'esperienza simile nel carcere di St. Quentin, il podcast Hear Hustle, che si intitola Thank You, ed è un progetto che vuole dare voce ai detenuti nelle carceri del San Quentin in California, realizzato dai detenuti stessi. Ascoltiamola e ritorniamo tra pochissimo. Thank you for listening. To focus on humanity is how we change conditionings. We all play a part in this world that we living in. We can change the outcome if everyone is pitching in. So let's get started. We got David Arden, we got Kerry Hoffman, we got Lori Kaufman. Yes, I'm not flossing, I promise, not trying to brag. We can only go up with Eleanor De La Paz. All facts, these people do more than listen. Mary Minor, Rachel James, and of course Janelle Dixon. And I'm not kidding, no magic, just no illusion. You people with real power, like Liz Houston. See what I'm doing, I know it's kind of clever. I'll confess it when I'm talking with Nadia Boats Weber. It gets better and better, Barbara DeNevers. And we would do more if the world allowed. Let us. And once you listen to the stories, you start feeling like your family. Tell them Robin Corey, you didn't do it for me, you did it for the whole. You did it Jan Clark, you did it Nina Gold. Now we golden, Victoria hone in. Open up your heart and let these names start to soak in. It's so important, these voices matter. Thank you Laura Belzer, Julia Bada. We gon' do it major, we gon' do it major. I say a name, justice for Breonna Taylor. We cannot waver, we gotta be strong. Come on Philippe Aldi, Catherine Long. It's gon' take backbone, but it's needed in the leader. Come on Griffin Riley, come on Katie Peters. If life is but the teacher, then we all students. And today's lesson is that we all humans. This how I commend you. It takes the whole to fix the whole, and surely you contribute. This is just a gift I get to present you with honor. A thank you that's monumental. Thank you. Where will we be? Come on, man. Where will we be? Sit back and think. A new appreciation could run this deep. If we never speak, I get a chance to meet. It's a thank you from the Ear Hustle team. So thank you for everything. Thank you for everything. Truly. All right, let's do it like this. Look. All right, before I drop the mic, we gotta thank Amanda Aronoff and Alfred White, Kathy Margulies, Dig Me Like Gardening, Pam Tindall, Sarah Tisdale, Pardon Me Like Hearts Need Arteries. You are now a part of me. You have been the blessing. Thank you for your offerings. And I'm just a man of candor. So thank you, Lindsay Cantor, JJ Panzer. Everybody stand up. Zephy McKenna. If we work together, then y'all secret Santa. Together we can answer any question that evolved. For Maryland, worse. And win Butch and Hall. Get involved, we prevailing. Tell them Deanna Cannon said, tell them John Helen. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Dopo la pausa musicale riprendiamo le notizie di oggi e con Antonella parliamo del World Wide Web. cos'è? Allora, guarda, ho letto questo bellissimo articolo di Michele Mauri sulla rivista della Natura e esiste una teoria affascinante secondo la quale gli alberi del pianeta sono connessi attraverso una fitta rete di radici, batteri, funghi e microorganismi, il cosiddetto Wood Wide Web, l'intelligenza delle piante. È un intricato circuito in cui le piante si scambiano preziosi nutrienti, ma anche delle informazioni per sopravvivere. Pensa, Caterina, adesso facciamo un salto nella mitologia classica. Zeus, dopo aver sconfitto il padre Crono che voleva inghiottirlo, si giocò a sorte il mondo con i fratelli Poseidone e Ade. E in questa spartizione al primo toccò il regno dei cieli, a Zeus, al secondo quello delle onde, Poseidone, e al terzo il sottosuolo, Ade. La terra era il campo per le scorribande dei tre dei e infuriavano ovviamente soprattutto Zeus e Poseidone, mentre Ade si mostrava pochissimo. Ed è la figura più sfuggente, se ci pensi, di tutto il Pantheon greco. E in fondo, a pensarci bene, quella parte del globo che si estende sotto i nostri piedi resta sconosciuta e misteriosa. Infatti il sottosuolo è nell'immaginario umano un luogo tetro, funebre quasi, che prefigura condizioni di isolamento e sensazioni di paura e smarrimento. Però la domanda è: siamo certi che sia veramente così? A volte conosciamo di più quello che c'è nello spazio che quello che c'è sotto i nostri piedi. E tra i primi ad avere un'intuizione c'è appunto questa scienziata che si chiama Suzanne Simard, e quando era bambina vagabondava spesso con i suoi fratelli per le fitte foreste del Canada e giocava con i rami caduti, raccoglieva funghi, mangiava la terra, un po' come fanno tutti i bambini in realtà. Diventata adulta intraprende gli studi di selvicoltura, si laurea all'Università della British Columbia e si specializza alla Oregon State University. Durante le sue ricerche, questa è la cosa interessante, Suzanne si rende conto che gli alberi presenti nelle selve artificiali, cioè quelle create dall'uomo per ragioni commerciali, sono molto più fragili di quelli che allignano nelle foreste secolari, eppure hanno più spazio, sono distribuiti quindi in modo uniforme, possono ricevere abbondante luce e acqua e prosperare bene, però sono più fragili. Perché? E quindi comincia a sospettare che ci sia qualcosa sotto, proprio a livello delle radici e non sopra. Tutto questo significa che in qualche modo lei scopre che le piante sono collegate attraverso le radici? Scopre infatti che le radici degli alberi sono collegate tra loro da una rete di batteri, funghi, microrganismi che permettono lo scambio di nutrienti fondamentali, tra i quali il carbonio, l'azoto, zuccheri, acqua, anche a grande distanza. Questa è la scoperta straordinaria. Quindi non solo questa rete è capace di favorire questo scambio di informazione, ma è proprio il luogo dove risiede l'intelligenza delle piante. Per esempio, può anche comunicare la minaccia di attacchi parassitari, e questo è un altro motivo che ci fa pensare che effettivamente ci sia questa modalità, proprio perché nelle zone naturali dove le piante crescono non in cattività sono più longeve e più protette. E attraverso questi circuiti sotterranei, tipo una sorta di internet del sottosuolo, se vogliamo dire così, le sostanze nutritive e i segnali di allarme passano da una pianta all'altra e non sono scambi casuali, ma governati da regole ben precise. Cioè, le risorse tendono a scorrere, per esempio, dagli esemplari più vecchi e più grandi, chiamati alberi hub o alberi madre, a quelli più giovani e più piccoli. E i segnali di pericolo sono immediatamente trasmessi ai fusti vicini. E quindi sottoterra avviene qualcosa di molto sorprendente. Per esempio, quando una pianta è in procinto di morire, a volte lascia in eredità una parte sostanziale del suo carbonio agli esemplari più prossimi. Una sorta, come dire, di solidarietà verde che fa rivivere, che fa riflettere sullo stato della vita vegetale. E così si spiega anche per quale ragione gli alberi separati dalle linee sotterranee hanno molta più probabilità di ammalarsi e di morire, ovviamente, rispetto alle loro controparti che sono nella rete forestale. E a questo punto ci ascoltiamo un brano e vi farei ascoltare Sista Awa, che altro non è che Awa Fall, con Money and Pollution. Però non andate via, perché dopo c'è l'intervista a Sara Malagoli, assistente sociale del progetto di Nintendo. A dopo. Bentornati, ben ritrovati e ben ritrovate sempre su Liberi dentro Duradio TV. Dopo la pausa musicale, io sono sempre con voi, sono Caterina, e qui con noi c'è Sara Malagoli, già da due giorni, che saluto. Ciao Sara, bentornata. Grazie. Assistente sociale del progetto di Mittendi del Comune di Bologna, proprio specificato sul carcere della Dozza di Bologna, di cui stiamo parlando già da alcuni giorni. E parliamo oggi della fase colloqui di questo progetto di Mittendi. Io so che tu entri in carcere per incontrare le persone all'interno, e come avviene e dove? Allora, il colloquio avviene nelle salette interne alle sezioni, e in base anche alla disponibilità, perché ovviamente sono salette usate anche da avvocati, da altri volontari, però ecco, sono le salette che ci danno la possibilità di parlare con la persona e in modo riservato, perché ci possiamo proprio sedere, e lì avviene il primo contatto con la persona. E quindi è il colloquio forse più importante, questo che si svolge all'interno. E sono colloqui in cui io mi presento, dove racconto chi sono, cosa faccio lì, e se la persona ne ha voglia faccio delle domande per capire la situazione della persona, e quindi poi insieme ragioniamo su quali interventi si possono attivare in base alle sue necessità. E a volte ci sono necessità che una persona magari non rileva subito o non ci aveva pensato, e in quel colloquio invece si riesce, insomma, come dire, anche a trovare bisogni a cui uno non aveva pensato, e quindi è proprio un bel momento di confronto. E poi i colloqui invece all'esterno avvengono nell'ufficio del servizio Bassa Soglia, o in realtà possono avvenire anche in altri contesti, perché ci possono essere accompagnamenti in altri servizi piuttosto che a una visita medica. Quindi la parte esterna appunto è molto più variabile, perché non abbiamo l'obbligo, ecco, di essere in una saletta, ma possiamo spaziare e andare anche nel luogo in cui è necessario andare insieme. Quindi anche andare in un consolato piuttosto che all'ufficio anagrafe a rifare un documento. E quindi ecco, i luoghi sono un po' vari dove le persone vengono incontrate. Ma concentriamoci sulle domande, per dire, durante questo colloquio tu chiaramente ti presenti, e sì, quali domande pone alle persone e anche quali necessità, quali richieste ti vengono poste? Allora, le domande che io faccio sono un po' di conoscenza anche anagrafica, quindi quanti anni ha la persona, da dove viene, dove stava prima della carcerazione, se dove stava aveva una famiglia, aveva una casa, quindi in che condizione era, se lavorava, e poi generalmente chiedo qual è il mestiere conosciuto da quella persona, e poi faccio... Dopo, ecco, questa prima conoscenza del pregresso, cioè del passato, vado un po' più sul presente, quindi chiedo cosa pensi di fare all'uscita. Questa è la domanda principale su cui poi si articolano tutte le altre. Quindi se una persona ha già un proprio progetto, e capisco se per noi è possibile favorire quel progetto. Quindi appunto, se una persona mi dice io vorrei tornare a Roma dove c'è la mia compagna, i miei figli, e io posso dire bene, sai già come organizzarti per il viaggio, per esempio, sì o no. Se è un no, io posso dire il servizio di Mittendi ha la possibilità di pagarti un biglietto per raggiungere Roma nel momento in cui tu esci, e oltretutto, se dal momento dell'uscita al momento del viaggio c'è un tempo di attesa, si può attivare un posto in accoglienza se la persona non ha altre possibilità. E quindi in base un po' al bisogno si cerca proprio nel colloquio di trovare anche subito piccole soluzioni. Se ovviamente il bisogno portato è di un'accoglienza di un lungo periodo, perché magari già prima della carcerazione si conduceva una vita di strada, oppure quello che si faceva prima della carcerazione non si vuole assolutamente più fare, non si vuole più tornare dove si era prima, allora benissimo, cerchiamo di preparare un altro territorio qui. che può essere Bologna, può essere un'altra città, però ecco, iniziamo proprio a preparare i servizi del territorio all'arrivo di quella persona. E quindi le domande poi sono se la persona era già conosciuta da altri servizi, se assume delle terapie, quindi capire se è necessario fare un ponte anche con i servizi sanitari all'uscita. E, ecco, le necessità possono essere tante e si cercano di indagare un po' tutti gli aspetti della vita per riuscire proprio a non tralasciare nulla. E quindi sia gli affetti, sia la parte economica, la parte alloggiativa e il futuro lavorativo, perché ovviamente il lavoro, quindi la possibilità di avere un'entrata economica, è quella che poi in ultimo permette un'autonomia e quindi è un po' l'obiettivo di tutti, ecco, quel raggiungimento di una nuova autonomia. Chiaro. E una volta avvenuto il colloquio, ne fate magari più di uno, dicevi i giorni scorsi, esatto, dipende poi dalle necessità, esatto. Avviene il momento della scarcerazione e dopo quanto riuscite a intervenire sulla persona? I tempi sono più o meno quelli giusti? Allora, i tempi dipendono dalla persona, perché noi di fatto in ultimo lasciamo libera la persona di presentarsi o meno al servizio. E diciamo che per il 50% le persone poi si presentano al servizio, cioè di quelle che già dentro ci avevano detto che si sarebbero poi presentate, e questo scarto nel momento dell'uscita a volte emergono risorse o possibilità che da dentro non c'erano, per cui il presentarsi al nostro servizio avviene quando effettivamente una persona uscendo si trova ad avere delle mancanze di qualche tipo. Ed ecco, al nostro servizio poi, come poi ho già detto in altre domande, insomma, di questa intervista, si cerca di dare risposta in base appunto alla necessità. Prima una persona si presenta, ovviamente meglio è, perché se nel tempo che la persona rimane fuori, magari vive in strada o comunque riprende alcune abitudini che aveva prima, si complica ovviamente poi la possibilità di intraprendere un percorso che permetta alla persona una stabilità. Quindi meglio, ecco, se una persona ha bisogno, prima cioè meglio che si presenti il prima possibile, ecco. Però noi poi ci siamo sempre, ecco, anche se una persona ha bisogno di un tempo, anche una settimana, due settimane, poi decide di venire al servizio, noi ci siamo. Comunque non c'è giudizio nel nostro lavoro, ecco, noi accogliamo quello che la persona ci porta, senza... Sara, grazie. Ti va di ricordarci ancora dove scrivervi, se qualcuno ci stesse ascoltando, dove ritrovarvi, come rintracciarvi? Allora, il servizio Bassa Soglia ha una mail che è sbs@sbsbo.it, e questa è, direi, la mail a cui si può trovare me e la mia collega. Io per ora lascerei solo la mail, ecco, poi dopo in realtà su internet si trovano anche altri contatti. Grazie Sara, ci rivediamo domani, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e una canzone con gli Imagine Dragons, e ci rivediamo per i saluti di fine puntata. Grazie. Grazie, ciao. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. My kingdom come, this is kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. E rieccovi, vi annunciamo le rubriche ora in occasione dei saluti di fine puntata. Avremo le pillole di Antigone con le proposte della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario Marco Ruotolo e a seguire Naufragi con idee di traverso. Scriveteci, redazione liberidentro, @gmail.com e come al solito un saluto grandissimo da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Paolo Leotti, Diana Bota. Ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.